1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7 e 20 minuti in questo istante, siamo qui a leggere i giornali, cari ascoltatori, questa è la rassegna stampa di 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9:30, come sapete, e allora forza, andiamo a sfogliarli questi quotidiani. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh? In questo mercoledì 20 luglio, intanto una carrellata dei titoli principali per il Sole 24 Ore, l'apertura è dedicata al bail-in, il bail-in legittimo come le deroghe, è ciò che conferma la Corte di Giustizia Europea dell'Unione Europea. Mentre ovviamente è Erdogan, sempre la Turchia, che raccoglie vari titoli di prima pagina dei quotidiani. Per il Corriere della Sera, Erdogan caccia i professori. Per Repubblica, vendetta turca, 50.000 le persone sospese o arrestate. Per La Stampa, la repressione di Erdogan, epurazioni di massa dentro scuole e moschee, chiuse radio e TV, cacciate 49.000 persone. Il Manifesto la definisce così, la scuola del terrore. Per Arrivare all'Unità, sotto il tallone di Erdogan, e infine Libero, che è durissimo nel titolo di prima pagina, Erdogan è come Hitler, e c'è la foto, o meglio la foto, un disegno del leader turco con i baffetti tipici di Hitler. Per il Messaggero, l'incubo del terrorista fai da te. E Avvenire invece, qui andiamo alle cose italiane, per i poveri assoluti finalmente una mano, il sostegno di inclusione alle famiglie con minori. Il ministro Poletti annuncia la partenza di questo strumento. Il Giornale, la verità sulle tasse, un euro su cinque non va pagato. Oh, io voglio partire proprio da qui, le tasse, perché il Giornale, Repubblica, insomma, raccontano di questo rapporto del Fondo Monetario che è stato, e anche dell'OCSE, che sono stati due rapporti sulle tasse italiane che sono stati resi noti ieri, sono stati chiesti dal ministro Padoan, commissionati un anno e mezzo fa. Tasse non pagate, il governo pensa alla rottamazione, cari ascoltatori, questo è il titolo di Repubblica. Roberto Petrini racconta, pagina 22 di Repubblica, che cosa? Che il dossier dei debiti fiscali ufficialmente aperto fa lanciare qualcuno in un proclama di rottamazione e pulizia del bilancio dello Stato, perché c'è una cifra, soprattutto sono i cosiddetti crediti inesigibili da parte dello Stato, cioè tasse non pagate ma che lo Stato non recupererà mai, perché dovute a soggetti, da soggetti falliti, deceduti, nullatenenti, frutto di azioni esecutive rese vane da opposizioni, da nuove leggi. È una cifra imponente, perché 680 miliardi sono appunto 680 miliardi di euro da ritenere inesigibili. Il problema di questa sorta di non performing loans dello Stato, se si vuol fare un parallelo con quello delle banche, richiede, scrive Repubblica, una ripulitura del bilancio. Enrico Zanetti, vice ministro dell'economia, ha proposto una rottamazione delle cartelle. L'operazione prevederebbe il pagamento dell'intera imposta più gli interessi legali, ma senza sanzioni e interessi di mora. Lo sconto andrebbe da un terzo al 50% del dovuto. Non pensate che sia una sorta di sanatoria, ma un qualcosa, qualcuno dice, di per recuperare dei soldi che altrimenti non si recupererebbero mai. Questo racconta Repubblica, mentre il Giornale la mette così: lo scandalo tasse inventato, un euro su cinque non va pagato. Questo è il titolo di pagina 3. Gian Maria De Francesco parte proprio da questi rapporti dell'OCSE e del Fondo Monetario a dire la cifra complessiva di quantità di debito fiscale in Italia eccezionalmente alta, si racconta in questi due rapporti. A settembre la cifra era di 756 miliardi, ma in questo inventario del terrore sono computati 180 miliardi di debiti fiscali non dovuti, che equivalgono al 22% dell'ammontare complessivo. Insomma, titola il giornale, più di un euro su cinque è richiesto o preteso indebitamente dal fisco nei confronti dei cittadini. Tale cifra in realtà scende, precisa l'OCSE, scende al 10% se si considera solo il periodo 2010-2014, segno che l'amministrazione fiscale ha cercato di mostrare un volto più umano, ma riuscendovi solo parzialmente. Comunque, questo succede nel racconto sulle tasse. Oh, invece questo bel premio di risultato, voi che andate a lavorare, lo so che sarete molto contenti dal sapere che al CNEL, come racconta il quotidiano Libero, al CNEL, Francesco Specchia, prima pagina e poi pagina 10, quel CNEL che è definito da tempo un carrozzone, quel CNEL che secondo alcuni andrà abolito, e andrebbe abolito e verrà abolito con la riforma costituzionale se passerà, racconta Libero, nonostante sia sull'orlo dell'abolizione, più volte peraltro annunciata, è appena arrivato un bel bonus da 92.000 euro lordi, circa 20.000 euro a testa, per 5 dirigenti del CNEL. Un'estrema unzione desueta. Eccoli qua, i premi di risultato per non lavorare. L'ente inutile sta per essere abolito, ma i dirigenti si godono aumenti da 20.000 euro lordi. Questo racconta Libero. Una cifra ben più alta viene invece raccontata da Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano, a pagina 16, riguarda Veneto Banca, riguarda la famiglia di Bruno Vespa, il celebre conduttore di Porta a Porta, e la cifra in questione è questa: 11.332.000 euro. Ripeto, 11.332.000 euro. È un colpo fortunato, racconta il Fatto Quotidiano, un colpo che la famiglia Vespa ha fatto nel luglio del 2013, quando il consiglio di amministrazione di Veneto Banca, ha deliberato il riacquisto da Bruno Vespa di 267.958 azioni della banca. E con lui si sono liberati di quasi tutta la partecipazione gli altri membri della famiglia, la moglie Augusta Iannini, che aveva 6.416 azioni, i figli Alessandro e Federico avevano 2.555 azioni a testa. In tutto fanno appunto 279.484 azioni vendute al prezzo massimo mai raggiunto dal titolo e all'ultimo momento buono per salvare il gruzzolo. Si parla di 11.332.000 euro. Perché il Fatto Quotidiano racconta, la famiglia Vespa è riuscita a vendere le azioni prima che si polverizzassero, scavalcando la lista d'attesa. Una irregolarità della quale dovranno rispondere gli uomini della banca, mentre Vespa è solo l'utilizzatore finale, lo definisce così il Fatto. E si racconta che, secondo il quotidiano, diretto da Marco Travaglio, dai primi indizi gli ispettori della BCE ipotizzano che la responsabilità di tutto ciò vada fatta risalire allo storico Dominus di Veneto Banca, cioè Vincenzo Consoli, vecchio amico e socio del popolare giornalista. Chiaro, quindi, il Fatto precisa, non sono certo Vespa e i suoi cari ad aver provocato il disastro da 5 miliardi di euro di Veneto Banca, eppure la storia esemplare di come funzionassero gli affari di Consoli, che ha spadroneggiato sulla banca fino a un anno fa. Questo almeno racconta il Fatto Quotidiano, a pagina 16. Va bene, cari signori, è il momento dell'articolo da mani sul volante se siete alla guida. L'articolo, insomma, che ci fa pingare della giornata. Appoggiate le lamette da barba se vi state per radere, cari cittadini, e anche i coltelli per spalmare la marmellata. Siamo su Repubblica, dove Antonio Fraschilla racconta a pagina 19 che c'è la truffa, ennesima per la verità, dei falsi braccianti. Sono stati assunti, l'ultimo caso è scoperto ieri a Piazza Armerina, due imprenditori hanno assunto per finta 378 braccianti agricoli. E voi dite, perché li assumono per finta? Ma certo, perché poi l'INPS, cioè noi, pagherà loro regolarmente l'indennità di disoccupazione. Una parte di questa indennità al bracciante che non ha mai messo piede in un campo agricolo la doveva dare agli imprenditori. Così anche l'imprenditore ci guadagnava. Un sistema a dir poco diffuso in Sicilia, dove i numeri delle truffe raccontano, secondo gli ultimi dati dell'INPS, di ben 18.000 rapporti di lavoro irregolari scoperti dagli ispettori, scoperti da carabinieri, guardie di finanza. La maggior parte di questi rapporti di lavoro fittizi riguardano proprio l'agricoltura, tra caporalato, finte cooperative, imprenditori che assumono solo sulla carta braccianti agricoli. Eccolo qua, sono 9.000 almeno all'anno di assunzioni fittizie, le ultime scoperte ieri. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Stamattina mi sono svegliato e voi proprio Sainter, Saldisa, Alessandro Milan, Calesa al giornale. L'informazione le sempre alla tua, salute. Ah, salute, va bene, grazie caro ascoltatore. Le vostre sigle possibilmente in dialetto e ci piacciono molto, come avete capito, al 349-238-6666. Questo è un numero per SMS, un numero WhatsApp per mandare i vostri audio, così con la qualità che piace a noi. Allora, dobbiamo parlare di Turchia, dobbiamo parlare di Germania, di Nizza, insomma, mala tempora currunt, si sa. E allora, in Turchia c'è in atto una grande epurazione, come titolo del Sole 24 Ore, pagina 6. Alberto Negri racconta di questa grande epurazione che cambia il volto della Turchia dopo l'esercito, colpite ora scuole, università. Nell'agenda del presidente anche tribunali speciali. Il formidabile esercito turco conta 500.000 uomini, 12.000 carri armati, 700 aerei, 300 navi. Ma il morale delle forze armate, come racconta Alberto Negri, è sotto la suola degli anfibi. Per esempio, in un fedelissimo di Erdogan, i militari sono circondati, circonda militari e polizia. L'uomo fidatissimo di cui parla Alberto Negri è Hakan Fidan. E racconta di un comandante arrestato in caserma e il suo vice caduto fulminato da un proiettile negli scontri dei ponti sul Bosforo. E poi, in una sola notte, tra venerdì e sabato, la Turchia che è cambiata. Per la prima volta nella sua storia è fallito un colpo di stato dei militari e ora la grande epurazione. E i numeri sono impressionanti. Il presidente Erdogan, come racconta Andrea Nicastro, un altro degli inviati del Corriere della Sera in questo caso, non si cura dei sopracciglia alzati delle diplomazie occidentali. Continua a tappe forzate a forgiare la nuova Turchia. Ieri è stata tolta la licenza di insegnamento a 21.000 insegnanti di scuole private. Il direttorato per gli affari religiosi ha espulso 492 tra mullah, predicatori e teologi. Ormai sono 49.000 i cittadini turchi epurati, arrestati o licenziati al grido di sradicheremo fino all'ultimo uomo questa organizzazione terroristica parallela allo Stato. Nessuno avrà più l'ardire di tradire il popolo. Così ha detto il primo ministro Binali Yildirim. E si racconta di una legge islamica che giorno dopo giorno si sta imponendo. Come altri due inviati, Marco Ansaldo di Repubblica e Sara Gandolfi del Corriere della Sera, raccontano, leggo dal Corriere, Sara Gandolfi, alle 7 di sera i top e le minigonne delle donne scompaiono. Da venerdì notte sulla via dello Struscio di Istanbul e poi fino a piazza Taksim, cuore passionale della città, vige una legge non scritta che le donne hanno imparato a fretta a rispettare. Dopo una certa ora meglio girare con braccia e gambe coperte, magari pure con il velo, magari mascherare collo e capelli. La notte è del popolo di Erdogan che resta sveglio fino a tardi cantando inni patriottici. Il pericolo è nell'aria, lo confermano gli sguardi sconcertati delle passanti laiche e le parole di alcune donne coraggiose come l'avvocatessa Ceren Akkawa, volontaria di una ONG contro la violenza sulle donne, che dice sulla carta la Turchia ha una legislazione molto avanzata sulla parità di genere. È anche il primo firmatario della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Ma nelle strade, stazioni, tribunali, la prassi è di tutt'altro tipo. E anche Marco Ansaldo su Repubblica, sotto il titolo «Gli ultra dell'Islam nelle vie di Istanbul, ora tutte le donne avranno il velo», racconta per esempio di questo episodio. In auto, quattro uomini barbuti apostrofano due ragazze che passeggiano sorridenti nel quartiere Beşiktaş. «Questi sono gli ultimi bei giorni per voi. Tra poco metterete il velo, come tutte». Benvenuti nella Turchia sopravvissuta al golpe. E i laici, i democratici, i liberali, dove sono? Si chiede Marco Ansaldo. Dov'è la Turchia scesa in piazza Taksim, a Gezi Park? Sono tutti a casa, la testa tra le gambe. Abbiamo paura a uscire, spiega Meltem, bella manager quarantenne. Il presidente ha ordinato ai suoi di presidiare le strade, le piazze. È meglio non rischiare di cadere in provocazioni. Tutti sono molto emotivi adesso. Potrebbe scatenarsi una guerra civile, facile che accada, è opportuno evitare ogni attrito. Ma possiamo solo sperare che la situazione cambi. Come? È una bella domanda, non lo sappiamo davvero. Ne parleremo alle 8.40. Ora la mannaia ha colpito anche i media. C'è l'intervista per esempio al giornalista del quotidiano turco Hürriyet, Yusuf Kanli, sul Manifesto. Chiara Cruciati che lo intervista e dice: beh, i media sono stati sempre sottoposti a dura censura, aspro controllo da parte del governo, ma è stata proprio la stampa a svolgere venerdì sera il ruolo che ci si aspetta dall'informazione libera, la copertura totale dell'evento. Erdogan, racconta questo giornalista al Manifesto, è un radicale oppressivo contro la stampa libera, un presidente che abusa dei giornalisti, ordina licenziamenti. E il timore ovviamente che sia sempre più così. In tutto ci si sposta in Germania, dove è comparso il video di questo 17enne afghano che prima di colpire con un'accetta e un coltello su un treno in Germania aveva lasciato un video dicendo: vi massacrerò i tedeschi. E ora tutti raccontano, come sul Corriere della Sera Paolo Foschini, l'inviato in Germania a Ochsenfurt, in Baviera, di un ragazzino dolce che poteva essere nostro figlio, il classico racconto dei vicini di casa, e invece lui si è trasformato in una belva che ha colpito. E la nuova parola chiave è questa: radicalizzazione istantanea. Si parla di questi processi di 15-20 giorni in cui ci si radicalizza per poi colpire. È interessante l'intervista che Il Giorno fa a Lorenzo Vidino, che è direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University, e che racconta di narcisisti e psicopatici pronti a tutto. Esistono personalità, racconta Vidino, che si trovano a vivere situazioni di disagio e magari sono afflitte da psicopatie, turbe mentali, colpite da eventi traumatici come il divorzio, che pensano che tutto il mondo ce l'abbia con loro, sono pronte a abbracciare idee fondamentaliste. E lo fanno soprattutto attraverso il web, perché se pensi di essere vittima di ingiustizia, ecco, l'ISIS ti dà una narrativa di facile approccio. Sei insoddisfatto? La colpa è degli infedeli e del mondo occidentale che ha creato questa situazione. Guardiamo Nizza, il tipo del tir che andava dicendo: un giorno tutti parleranno di me. Vede quello che è successo a Orlando, negli Stati Uniti, dove il signor Nessuno, da una vita passata dissoluta, conquista la ribalta col suo atto suicida, secondo la narrazione dell'ISIS, purifica il suo passato da peccatore, ed ecco quindi che decide di emulare quel gesto. Il web, ovviamente, racconta Vidino, incide tantissimo, perché la radicalizzazione fai da te avviene proprio su internet, soprattutto sui social, soprattutto sulle chat. In tutto questo, a Nizza, le vittime sono 6, vi segnalo soprattutto la storia davvero incredibile raccontata da Andrea Galli sul Corriere della Sera, di Mario Casati, non che le vittime siano diverse, ma insomma arrivare a 92 anni, 92, per andare a Nizza ed essere colpito per mano di un jihadista, questo è il titolo, è davvero qualcosa di incredibilmente emblematico e di segno dei tempi odierni. Caro Mauro Meazza, buongiorno. Tiraci un po' su. Sì, va bene, proviamo col bail-in. Ecco, va benissimo, il bail-in, ottimo. che non è la classica esclamazione. No, chiariamo che stiamo dicendo bail in, so che vale Liguria anche fuori dalla Liguria, sempre, sì, esatto, sì. Hanno sempre un po' di perplessità quando utilizziamo questo termine, che significa salvataggio interno delle banche. Mm. Beh, insomma, se una banca va male, provveda da sé, provvedano i Mauro Meazza, ma anche di Alessandro Milan, perché no. E allora la Corte di Giustizia Europea ha detto, sollecitata sul punto da una questione che riguardava le banche slovene, no, il salvataggio interno, adesso non riesco più a dire quel termine inglese, il salvataggio interno è legittimo, però è possibile derogare, cioè lo Stato potrebbe intervenire a certe condizioni, e siccome è quello che l'Italia sta chiedendo, questo ti fa capire perché oggi pagina 3 del Sole 24 Ore spiega nel dettaglio questa decisione della Corte di Giustizia Europea. Insomma, sembra un precedente che lascia uno spiraglio di ottimismo. Così come sarai contento di sapere, sì, caro Alessandro, che il governo pensa a un progetto di revisione delle ricongiunzioni dei periodi contributivi. Stai seguendo? Sì, sì. Stai prendendo appunti? Oh, gratuite, cioè può capitare che uno abbia contributi, periodi lavorativi sparsi in più gestioni, se deve rimetterli insieme per arrivare finalmente alla pensione, beh, è oneroso, è costoso. Allora, il governo sta pensando, con gli interventi che varerà per il 2017, anche a questa modifica. Trovi tutto comunque nei dettagli, anche con altri interventi in vista, nelle pagine del Sole 24 Ore, nelle prime pagine, non andare in norme e tributi. No, mi fermo prima. A norme, no, ci andrai religiosamente come è giusto, ma a norme e tributi invece ti spiegheremo, ad esempio, che sta riaprendo la possibilità di pagare le tasse a rate. So che oggi sei molto attento alle questioni di tasse, sì, hai parlato diffusamente e me ne compiaccio, però appunto c'è anche questa possibilità che sta arrivando, riaprire anche per importi fino a 60.000 euro, si può chiedere di pagare le tasse. Sei contento di saperlo? Sono molto contento, molto contento. Però attento, caro Mauro Meazza, mi ha detto che c'hai un Pokémon Go sulla spalla. Vedo che questa mania appunto sta un po' dilagando. Non ne parla il Sole 24 Ore, mi pare ne parli il Wall Street Journal addirittura, sì. Quindi diciamo che sarà una cosa che andrà prendendo piede sempre più. Volevo dirti, scusa, adesso mi hai distratto con questa vicenda di pupazzetti giapponesi. Pupazzetti giapponesi, sì. Non vorrei mancare di rispetto, insomma, non erano una cosa così, vabbè. No, volevo anche dirti che si pensa di prorogare il superammortamento. Non fare lo scettico, guarda che è una misura importante, anche per il 2017, lo scriviamo oggi su Sole 24 Ore. Molte altre cose vorrei dirti, ma vado a riassumere, te la faccio breve. Leggi sempre avidamente Finanza, perché c'è il piano di gestione di un altro 30% delle Poste, collocamento di un altro 30% di Poste, tutti particolari in cronaca, ma soprattutto due notizie viabilistiche. Poi posso andare con il viabilistico? Sì. Allora, troverai in Finanza di questa multa, maxi multa al cartello dei produttori di camion, quasi 3 miliardi, 2,9 miliardi di euro, per un cartello, appunto, si erano messi, ahimè, d'accordo, non per abbassare i prezzi, ma per tenerli alti. Mm-hmm. E la Commissione non l'ha presa benissimo. Una notizia invece che troverai in norme e tributi, verso le ultime pagine, ma tu leggendo religiosamente sicuramente non te la farei sfuggire, è che il risarcimento è dovuto anche a chi è trasportato da un conducente che ha solo il foglio rosa. Ah. Quindi, questa è stata una decisione della Cassazione che ha chiarito, c'erano un po' di pasticcetti in primo grado, dai giudici del primo grado, la Cassazione ha detto no, il risarcimento è dovuto. Perché ti parlo adesso di queste cose? Chissà mai perché. Perché è il momento della mia parola conclusiva. Traffico! Alessandro Milan, i Pokémon Go della informazione. Lo so, ormai ci siamo tutti in mezzo, io però me ne tengo bene alla larga. Allora, e poi sui giornali, e poi c'è la politica italiana. Allora, scusate il cambio di tono, ma proprio mi ha colto una depressione istantanea, ma teniamoci su. Allora, la notizia politica del giorno certamente è questa, e cioè che Alfano lascia probabilmente il nuovo centrodestra. Una lite tra centristi. Sì, perché dico Alfano? Mi correggo. Schifani lascia. No, correggo, cancellate tutto. Tranquilli, è tutto a posto. Schifani lascia il partito di Alfano del nuovo centrodestra. L'ex presidente del Senato, Renato Schifani, si è dimesso da capogruppo di Area Popolare, cioè NCD e UDC al Senato, e non ha ancora abbandonato il partito, ma è in procinto di farlo, secondo alcuni. Oggi rilascia un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Gianluca Abate, dice Schifani: ho rilevato che il mio partito ha disatteso i principi fondativi e la sua missione. Ha assunto una posizione eccessivamente filogovernativa che ha comportato un'oggettiva difficoltà a portare avanti i nostri punti di programma. E alla domanda «Ma dove andrà ora?», chiede Gianluca Abate, «mi riposo per il momento. Subito dopo cercherò di dare il mio contributo per far sì che il centrodestra torni unito sul modello di Milano». Quindi guarda Berlusconi. «Lascerà il nuovo centrodestra?», chiede il Corriere. «Ci sto pensando. E sì, non è escluso. Difficile convivere in un partito in cui il nuovo progetto, politicamente indefinito, mi ha spinto alle dimissioni». Insomma, Schifani lascia Alfano, forse torna da Berlusconi. Chiaramente, in realtà, la notizia politica importante è che in Senato si sa che i conti ballano, i numeri sono risicati. Alfano ora si trova con questa nuova gatta da pelare, con Schifani che dice il centro è fallito, guarda al ritorno forse da Berlusconi, e i numeri sono quelli che sono. Vi risparmio il dibattito sul Mattarellum 2.0 o il Bersanellum. Oggi Iena, sulla Stampa, pagina 3, è il più efficace. Tutto il mondo sta esplodendo e noi qui a combattere col nostro miserabile Italicum. Ecco, è una sintesi perfetta del racconto attraverso i giornali, delle pagine che in questa situazione si occupano del dibattito tra Italicum, Mattarellum 2.0 o la comparsa del Bersanellum. Sicuramente invece è più interessante dal punto di vista della lotta alla povertà ciò che racconta Avvenire. Per ora è un annuncio, si spera che sia concretizzato e bisogna vedere come, con quali soldi. Si chiama in sigla SIA, è il sostegno per l'inclusione attiva, ne parla Avvenire soprattutto, Luca Liverani a pagina 8, è l'annuncio del ministro del lavoro Poletti. Contro la povertà, il Ministero del Lavoro lancia questo sostegno per l'inclusione attiva, una misura destinata alle famiglie in difficoltà che dovrebbe assicurare circa 320 euro a nucleo, raggiungendo circa 200.000 persone per un totale, o meglio 200.000 famiglie per un totale di beneficiari tra le 800.000 e il milione di persone, metà dei quali sono minorenni. Questo ovviamente è l'intento del Ministero, le richieste per ottenere l'aiuto potranno essere presentate a partire da inizio settembre. È un provvedimento urgente, subito operativo, che arriva in via amministrativa grazie a un decreto interministeriale. È il modo per estendere a livello nazionale la sperimentazione avviata in 12 città dal Ministro Giovannini. È una card, insomma, per le spese più percorsi di inserimento socio-lavorativo per nuclei con minori e disabili. L'idea appunto è di arrivare a 1 milione di persone, incluse 200.000 famiglie, con 320 euro di soldi. Vi segnalo anche un'intervista all'amministratore delegato della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, intervistato da Mario Aiello sul Messaggero a pagina 11, annuncia una accademia per formare tutti i dipendenti della RAI. Il direttore generale, questo è il ruolo, in realtà la dicitura esatta, il direttore generale della RAI, dopo un anno dall'insediamento, dice: il progetto si chiama RAI Academy, investiremo 15 milioni di euro. Per riuscire a innovare così tanto abbiamo bisogno che tutta l'azienda sposi questa discontinuità e quindi lanciamo questo grande piano di formazione per tutte le persone che lavorano in RAI. La prima cosa che un'azienda deve fare è aggiornare professionalmente le persone. Non è sufficiente dire veniteci dietro. Negli ultimi 10 anni non c'è mai stato un progetto così ampio di cambiamento come RAI Academy. Praticamente in cosa consiste? Chiede il messaggero e risponde Campo Dall'Orto. Verrà fatta una formazione su teorica, sia teorica, ci associeremo alle maggiori università italiane e straniere, e sia sul lavoro. Faremo da un lato una formazione molto diffusa, dall'altro una formazione più specialistica e di alto livello. Poi parla dei talk show, dei palinsesti, dice il palinsesto è nuovo per il 33% in Rai nella prossima stagione e annuncia sui talk show, che si sono consumati anche per eccesso di autoreferenzialità, ci saranno più immagini fuori, intendo dire più immagini del paese reale nei prossimi talk show, più reportage, meno politici che parlano tra di loro. Beh, messa così sembra una grandissima premessa, staremo poi a vedere. Oh, le altre notizie, non c'è tempo, c'è tempo solo anche in diretta sul mio canale pubblico di Facebook di raccontare i soliti, eccolo qua, i Pokémon. Basta, tutti i giorni sarà dedicata ai Pokémon, la carta costa se ne trovo un articolo. Oggi è su Libero, i Pokémon invadono la Camera e il Senato, i cronisti di Libero sono andati con l'applicazione Pokémon Go e hanno trovato alla Camera un PJ, ma che minchia, un PJ, un Doduo, un Ratata, ma... Che cos'è? Ma chi se ne frega?